Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Fra pochi giorni la galleria ferroviaria del nuovo San Gottardo entrerà a pieno regime. Inaugurato lo scorso giugno, il tunnel ferroviario più lungo al mondo verrà attraversato ogni giorno da 260 treni merci e 65 treni passeggeri, rendendo più vicine Europa mediterranea ed Europa continentale, con potenziali benefici anche per il nostro paese. La galleria svizzera apre infatti importanti possibilità per il trasporto delle merci italiane ed è parte di quella che viene definita cura del ferro, cioè tutte quelle misure studiate dal governo per potenziare il trasporto merci ferroviario e renderlo più competitivo a livello europeo. Il ferro bonus è una di queste misure. Il provvedimento garantirà per 3 anni incentivi economici a chi sposta tir e semirimorchi via treno. Per far questo, però, bisognerà realizzare anche in Italia gallerie più ampie e compatibili con le sagome di camion e container di nuova generazione. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E c'è una frase che è ormai diventata quasi un luogo comune quando si parla di trasporti: la cura del ferro. Sta ad intendere la necessità di trasferire sempre di più quote di traffico, sia passeggeri ma anche di merci, sulla rotaia da altre modalità, come ad esempio la strada. E oggi cerchiamo di capire se questa cura del ferro può davvero portare alla guarigione di questo grande malato che è il mondo dei trasporti. Parliamo in particolare del mondo delle merci, lo facciamo in compagnia di Giancarlo Laguzzi, che è il presidente di Fercargo, l'associazione che raggruppa gran parte degli operatori privati ferroviari. Presidente Laguzzi, allora, si parla tanto di cura del ferro, ma è una cura che davvero può servire al mondo del trasporto delle merci? Questa volta credo che sia la volta buona, perché dopo la liberalizzazione che ha consentito la nascita delle imprese che sono le nostre associate, che ormai coprono quasi il 40% del mercato del trasporto ferroviario delle merci, serviva diventare uguale all'Europa. Che differenze c'erano essenzialmente con la Svizzera, con la Germania, e via dicendo? E i treni là sono più lunghi, sono di 750 metri, mentre qua da noi sono 550, 600 metri. Là trasportano, scaricano complessivamente, compresa la tara, 2000 tonnellate, i nostri 1600, quindi vuol dire sostanzialmente che un treno di là ha un 25% di merci in più, con costi sostanzialmente paragonabili. Quindi è un problema di dimensioni e di pesi sostanzialmente. Esatto. E il secondo tema, questo è il primo tema, il secondo tema è che in Italia non abbiamo ancora adeguato, se non dai terminal della Padania verso nord, ma non a sud, non assolutamente non per il centro e sud Italia, le sagome delle gallerie, e quindi non si possono caricare i trailer, non si possono trasportare i container ai cubi. Ecco, spieghiamolo ai nostri radioascoltatori che non sono dei tecnici, quindi praticamente le gallerie sono più strette dei treni che dovrebbero transitare all'interno di queste ultime, ma è un problema che riguarda solo il sud o riguarda anche altre zone del paese? Riguardo il centro-sud, compreso la parte sud della pianura padana, per esempio la galleria, le gallerie degli Appennini, sia quella tra Bologna e Firenze, ma anche tra Tortona e Genova, per citare i due valichi più utilizzati, così come la Pontremolese, sono gallerie vecchie e quindi con sagome che non consentono di trasportare i camion certo. I container delle nuove generazioni. Laguzzi, a proposito di questo, lei prima parlava di Svizzera. A dicembre partirà questo importantissimo collegamento del Gottardo. Proprio qualche giorno fa c'è stata a Roma la firma di un accordo fra il ministro Delrio e l'omologo ministro svizzero. Ma cosa succederà con l'apertura del Gottardo? Intanto una galleria che servirà sia viaggiatori che merci, e quindi per i viaggiatori vuol dire recuperare più di mezz'ora di tempo. Per le merci cosa vuol dire? Vuol dire che oggi è una galleria base, una galleria di base, quindi una galleria con pendenze basse, quindi è come camminare in pianura. Oggi i treni merci devono essere, oltre alla locomotiva titolare, e devono essere spinti in coda da altre due locomotive, mentre con la nuova galleria del Gottardo si transita con la sola locomotiva titolare, non c'è bisogno di spingere come oggi con due locomotive. Questo per quanto riguarda la specificità tecnica. La galleria poi consente un incremento di volumi, quindi diciamo si elimina una strettoia, che era la strettoia sull'asse nord visto dall'Italia, era la galleria più critica. Adesso, grazie a questo grandissimo investimento degli svizzeri che sono finanziati tutti loro l'opera e l'hanno fatto la più lunga galleria del mondo, 57 chilometri, che è aperta tecnicamente da giugno, quindi alcuni treni sono già transitano, quindi la galleria è assolutamente efficiente e bisogna, per avere i vantaggi, aspettare il cambio dell'orario che per convenzione europea è a metà dicembre e da quella data si passerà a tutti gli effetti proprio in programmazione dentro questa nuova bellissima galleria. Ecco, lei ha parlato di vantaggi, però ci sono alcuni operatori italiani che sono un po' preoccupati degli svantaggi, e cioè una volta ridotta questa strettoia, aperto questo corridoio che praticamente dal nord Europa porta direttamente in Italia, qualcuno potrebbe optare per far scaricare i propri container e le proprie merci sui porti olandesi e non su quelli italiani. Assolutamente sì, questo rischio qui esiste, come tutte le infrastrutture di trasporto non guardano la direzione, quindi certo. Poi sta chi lo utilizza a utilizzarlo al meglio. Se il Ministero dei Trasporti non avesse attivato questa cura del ferro, che consiste in questi investimenti che permettono treni più lunghi, treni più pesanti, gallerie e gallerie più larghe, investimenti già partiti, quindi stiamo parlando di cose concrete, non di cose teoriche, oggettivamente il rischio c'era tutto, mentre così potenziandosi a casa nostra dovremmo avere dei vantaggi. Questo è la certo. Sintesi. A proposito di casa nostra, lei prima ha parlato un po' del sud Italia, dove ci sono comunque dei problemi infrastrutturali. C'è però un dato interessante e che riguarda il cosiddetto ferro bonus. Innanzitutto ci vuole spiegare di che cosa si tratta e poi le farò una domanda specifica sul sud. Incentivi che ha dato il governo, che sono in fase finale di approvazione a Bruxelles, che sono, uno si chiama ferro bonus e l'altro si chiama un incentivo per il pedaggio, uno sconto pedaggio, hanno l'effetto di anticipare gran parte degli effetti degli investimenti infrastrutturali per fare treni più lunghi e più pesanti. Ma questo vuol dire che il cliente è tranquillo, cioè noi gli diamo un vantaggio, diciamo, di prezzo rispetto all'anno scorso, per dire, e questo vantaggio si mantiene nel tempo, non c'è il rischio poi che qualcuno tolga l'incentivo, perché l'incentivo verrà tolto da queste opere che progressivamente verranno attivate, inaugurate e aperte. Ecco, esatto. A proposito di questo incentivo, è bastata la promessa di questo incentivo a far crescere in maniera importante i traffici, soprattutto al sud. Si parla di un più 24%, addirittura parliamo ovviamente di traffici ferroviari. Come legge lei questo dato? No, è un dato molto chiaro, cioè le nostre imprese hanno ridotti i prezzi, hanno fatto sconti e contando sull'erogazione dell'incentivo, convinti che l'incentivo sarà erogato, quindi siamo a credito, le nostre imprese sono a credito, quindi l'incentivo verrà erogato. Per un motivo tecnico ho avuto problemi lo scorso anno, ma quest'anno comprende anche il 2015, quindi verrà erogato alle imprese, solo quelle che hanno fatto gli sconti ovviamente. Ecco, perché però questo dato riguarda solo il sud e non anche le altre zone? Perché forse lì il mercato è già un po' saturo? No, la domanda è giusta, perché nel 2015 l'incentivo era partito solo per i treni da e per il sud. E poi visto il successo, è stato esteso per il 2016 e il 2017 anche al nord. E contemporaneamente è partito anche il ferro bonus. Diciamo, è stata fatta una prova. La prova ha dato buoni risultati nell'area più complessa, diciamo, del paese, per quando si parla di sviluppo, e si è continuato su questa strada. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro